Cari amici, con questo audio mi piacerebbe condividere con voi alcune mie riflessioni riguardo il programma politico di Casa Pound. Prima di tutto mi presento. Sono Alessio Paolo Morrone, sono di Cagliari, come avrete intuito, e sono un estimatore di Casa Pound. Come detto prima, vorrei focalizzare un paio di punti fondamentali che mi sembra non siano stati presi in debita considerazione. Entrando nel dettaglio, ho individuato non uno, ma ben due talloni di Achille che, secondo me, rischiano in futuro di rendere Casa Pound il cosiddetto gigante dai piedi di argilla. I talloni di Achille da me individuati sono le questioni dell'aborto e dell'omosessualismo. Pare infatti che questi due elementi passino in secondo piano se raffrontati a temi quali l'economia, l'immigrazione e la sicurezza. E invece sono convinto siano anch'essi temi fondamentali e mi accingo ad esporvi le ragioni della mia convinzione. Dunque, Casa Pound, per sua stessa missione, è una realtà orgogliosamente laica e aconfessionale. E fin qui non posso che essere d'accordo, perché ho avuto l'onore o l'onere di aver conosciuto la Democrazia Cristiana e il suo disfacimento più di 20 anni fa. Un partito che truffaldinamente ha catalizzato per decenni il voto dei cattolici per riconvertirlo in carta straccia alla prova dei fatti. E a distanza di anni la carcassa della cosiddetta balena bianca continua a esalare il suo fetore nauseabondo. Quindi è evidente che l'Italia non abbia bisogno di un partito con una spiccata vena religiosa. D'altro canto, non bisognerebbe neanche mettere come punto di forza una ipertrofica laicità. Mi spiego. Mi è parso di captare sul web una irragionevole attitudine di alcune frange di Casa Pound nel trattare argomenti che riguardano la morale cattolica. Nel senso che qualsiasi valore non negoziabile agli occhi della Chiesa cattolica debba essere scartato o sminuito a priori da Casa Pound. E questo fatto non solo è, secondo il mio parere, un colossale abbaglio, ma è anche un inaspettato e graditissimo assist per l'elite del nuovo ordine mondiale. Perché da un punto di vista squisitamente laico, è perfettamente plausibile che certi elementi, come un'interruzione di gravidanza o una relazione omosessuale, riguardino la sfera personale dell'individuo. Se ad esempio non accetto una gravidanza indesiderata o pratico rapporti contro natura col mio partner, che problemi potrei creare allo Stato o alla società? La risposta a tale quesito non la darò esplicitamente, ma implicitamente, ponendo un'altra domanda. Se davvero certi elementi riguardano davvero la sfera intima della popolazione, come mai Soros e compagnia di giro votate alla disgregazione della civiltà occidentale, spendano vagonate di soldi per incoraggiare e promuovere queste pratiche considerate private? Riflettiamo. È evidente che poteri forti, con la massoneria in primis, hanno capito che una nazione è come un edificio. Se questo edificio è costruito con mattoni di prima qualità, compatti e resistenti, saremo pur certi che davanti a qualsiasi intemperia non vacillerà né si disgregherà. Ma se un edificio fosse costituito da mattoni prodotti con materiali scadenti, inevitabilmente collasserà su se stesso alla minima sollecitazione. E quindi vediamo come il mattone costituente una nazione, una patria e di conseguenza una civiltà è la famiglia. E possiamo vedere come negli ultimi 30-40 anni il target delle élite mondialiste sia stato quello di indebolire e rendere friabile questo mattone. Per focalizzare meglio la questione, prendiamo ad esempio l'Italia a cavallo tra il XX e il XXI secolo e di due personaggi a libro paga dell'élite sopracitate. Sto parlando di Emma Bonino e di Giacinto Pannella, noto Marco, di cui non mi sento di definirlo buon'anima. È interessante notare come per decenni la ragion d'essere di questi due individui e del loro partito radicale sia stato lo scardinamento della legge naturale e della famiglia, a partire dal primo colpo andato a segno, cioè l'introduzione in Italia del divorzio, a seguire la legalizzazione dell'aborto e poi via via fino alle unioni civili e all'eutanasia, per concludere col tentativo di creare un meticciato importando anzi deportando, centinaia di migliaia di maschi africani. E che il Partito Radicale sia stato, nel corso degli anni, nient'altro che un mezzo per attuare il cosiddetto piano Calergi, lo dimostra il fatto che la Bonino, responsabile direttamente o indirettamente di ben 6 milioni di aborti in Italia, sia la stessa che giustifica l'importazione massiccia di stranieri perché sostituirebbero quell'enorme quantità di bambini mai nati. Ma guarda caso, Emma Bonino è anche una accanita sostenitrice della lobby omosessualista e velatamente pedofila LGBT. E se da un lato l'aborto impedisce ad una vita di nascere, dall'altro lato le relazioni omosessuali sono di per sé sterili, perché è evidente che da un rapporto tra persone dello stesso sesso non potrà mai scaturire una vita, a meno che non si affitti a caro prezzo un utero in giro per il mondo. Vediamo quindi che con tali premesse qualsiasi invasore avrà la facoltà di penetrare in Italia come un coltello nel burro. È la dimostrazione che certe realtà, apparentemente relegate alla sfera personale, possano avere il potere di minare le fondamenta di un'intera civiltà. Ma prima di concludere, non posso non testimoniare il grave disagio che attanaglia i cattolici all'interno della cabina elettorale. Precisando però che per cattolici intendo tutti coloro che non si sentono rappresentati da Jorge Mario Bergoglio, cioè Papa Francesco I. Infatti, se la Chiesa poteva essere moribonda, il Papa argentino le ha dato il colpo di grazia. Un Papa che annoveri nel proprio pantheon personale personaggi come Pannella, Bonino, Scalfari, Evo Morales, Barack Obama e Fidel Castro. Viene da pensare che stia al cattolicesimo come i cavoli a merenda. E quindi, tornando al disagio preelettorale di molti cattolici, come detto prima, posso testimoniare che tantissime persone, se non si astengono dal voto, si recano alle urne per mettere una crocetta, maturandosi il naso, come ebbe a dire argutamente Indro Montanelli anni fa, a proposito di quei cattolici che si facevano violenza votando Democrazia Cristiana. Perché semplicemente non vedevano alternative credibili. Praticamente si votava il cosiddetto male minore. Ma io posso affermare che c'è una marea di veri cattolici che sarebbero pronti a mettere la crocetta sulla testudo, ma sono bloccati dal fatto che certi valori con la V maiuscola non sono considerati tali da Casa Pound. E quindi, con questo mio breve intervento, spero di aver suscitato vari spunti di riflessione, penso costruttivi. Da Cagliari vi saluta Alessio Paolo Morrone. A presto.